una canzone, tu casi bella e tieni a voce d'ora. Canta per me stanotte, casi mora, morra sendella, bella canzone. Chitarra, chissà stanotte non si scelta amore, l'amore sfortunato e canta d'ora, canta d'ora, la chitarra. Non